Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno e buona domenica da Riccardo Chiaberge. Oggi alla finestra sul cortile parleremo di guerre dell'arte, per l'arte, e di cani da guerra. Non cani da combattimento, ma soldati a quattro zampe. Le guerre artistiche, parliamo dei marmi del Partenone, trafugati da Lord Elgin agli inizi dell'Ottocento ed esposti al British Museum di Londra, sono da quasi due secoli, lo sappiamo, al centro di una contesa senza fine tra i governi britannico e greco. Adesso un critico d'arte francese lancia una proposta spiritosa e provocatoria per risolvere la querelle approfittando della crisi finanziaria. Vedremo di cosa si tratta nella nostra trasmissione. Ne parleremo con un ospite illustre, lo storico dell'arte Salvatore Settis. E poi con un altro ospite, l'etologo Danilo Mainardi, ci occuperemo di cani soldato e del ruolo che hanno avuto sul fronte russo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma sentiamo cos'altro prevede il sommario della puntata di oggi. Russia. Eroi a quattro zampe. Storie di cani che hanno salvato i soldati sovietici durante il Secondo Conflitto Mondiale. Giappone. Le radio giapponesi cercano scampo su internet. Parigi. Visti dagli altri. La Napoli di Mimmo Iodice alla Maison Européenne della fotografia. Grecia. I marmi del Partenone al British Museum. Un pegno per i debiti del governo di Atene? America. SOS Pitoni. Come fermare la marea di serpenti che invade la Florida? Argentina. Quando il flamenco sposa il tango. L'esperimento di un musicista di Buenos Aires. Il ritmo marziale e minaccioso di Dogs of War dei Pink Floyd, una canzone del 1987, dall'album A Momentary Lapse of Reason. Dogs of War, cani di guerra e uomini d'odio. I cani da guerra non sanno negoziare, i cani di guerra non possono capitolare, cantavano i Pink Floyd alludendo ai guerrafondai, agli uomini che scatenavano in quel momento la guerra delle Falkland. Ma di cani di guerra noi parleremo in questa puntata della finestra sul cortile, ma di cani buoni, cioè che nelle guerre hanno avuto un ruolo importante e benefico. E questi cani, scrive Olga Kalashnikova sul Moscow Times, erano ben 60.000 nell'Armata Rossa e ben 700.000 soldati furono salvati proprio grazie al loro intervento. Cani infermieri che andavano nelle zone di guerra e sapevano riconoscere un ferito da un cadavere, strofinando il loro naso sulla faccia per rianimarli, e portavano in groppa al segno della Croce Rossa anche una bottiglietta di vodka, naturalmente. Ma c'erano anche cani messaggeri che erano molto più veloci ed efficienti degli uomini nel portare i messaggi, e perfino cani sabotatori come Dina, un cane che fu l'artefice di un attentato a un treno di nazisti a Belarus nell'agosto del 43. Non sappiamo di che razza fosse, magari era un pastore tedesco per ironia della sorte. E poi c'erano cani antimina che fiutavano l'esplosivo, c'è un colli chiamato Dick che salvò il palazzo Pavlovsk, uno delle più grandi e più importanti residenze della famiglia imperiale russa, a 30 chilometri a sud di San Pietroburgo. Insomma, di queste storie è ricchissimo l'articolo di Olga Klachnikova sul Moscow Times. Ma proprio per parlare di questi eroi a quattro zampe abbiamo al telefono un ospite che salutiamo. Buona domenica, Danilo Mainardi. Tutti conosciamo Mainardi, etologo e scrittore, tra l'altro appunto anche autore recentemente di un saggio proprio sull'intelligenza degli animali, no? Queste storie ricorrono molte figure appunto di cani che capaci di straordinarie prestazioni. Ma saranno tutte vere queste storie che sembrano un po'... il film Lassie, no? Sembrano un po' romanzate, no? Non c'è un po' di mitologia? Sì, molte di queste storie hanno dell'incredibile, soprattutto quando questi animali sembra quasi che facciano dei ragionamenti complessi. Ce ne sono tante anche che non riguardano la Russia, soprattutto quando non aiutano direttamente. Per me le cose che impressionano di più è quando non aiutano direttamente, come il loro altruismo li spingerebbe da un punto di vista anche istintivo, la persona ferita, certo. ma vanno a chiamare un aiuto, cioè fanno un ragionamento più complesso in certi casi, e questi sono i più impressionanti. Oppure certo, mettono una bomba sotto un treno. Quello lì, poveretti, quelli lì ci lasciano la pelle e potremmo considerarli analoghi a dei kamikaze inconsapevoli, però in questo caso. In questo caso pare che questo Dina si sia salvato, perché ha lasciato lì il carico che aveva sulla groppa e si allora è scappato. Sono un po' più raffinati, ma molte volte invece ci lasciano la pelle. C'è da dire una cosa, che cani da guerra ci sono da migliaia di anni. Mi viene in mente, sentendo tutte queste storie, il fatto che quando i romani, gli eserciti romani sono andati a conquistare l'Inghilterra, hanno scoperto una razza veramente fantastica che li chiamavano i Pugnaces Britannie. L'hanno riportata indietro e pare che il nostro mastino napoletano sia un discendente, insomma. Un discendente di questi, per cui è una storia antichissima. Cioè, quelli però erano effettivamente cani combattenti, per cui erano dei mastini, e quelli tra virgolette che potremmo dire cani cattivi. Anche cani da combattimento, insomma. Ecco, sì, esattamente, cani da combattimento o gli antenati dei cani da combattimento. Qui invece, ma sempre più in questo caso, vengono utilizzati con funzioni molto diverse, da messaggeri e così via. Poi hanno questo fiuto così straordinario. Bisogna anche dire, lei ha citato prima con un po' di ironia un pastore tedesco, però certo, in questo caso sarebbe stato, diciamo, volendo fare una battuta, un traditore della sua parte. Eh sì, perché colpiva un treno carico di soldati tedeschi. Appunto. Ma il fatto è che soprattutto sono cani da pastore, in ogni caso, quelli che vengono utilizzati, o scozzesi o tedeschi. Sì, infatti si parla anche di colli, no? Sì, si parla di colli, perché non c'è nessun altro cane come questi che ha proprio questo spirito della collaborazione e dell'altruismo, per cui sono sempre questi. Il cane da pastore in genere è il più adatto per fare questi mille mestieri che si nascondono sotto questo fatto di chiamarli cani da guerra, perché poi lo stesso lavoro lo fanno anche i cani poliziotti. Appunto, quelli, i cani in tempo in aeroporto di... Esatto. Coprono la droga. La droga, certo. E poi ci sono i cani da soccorso, quelli che che salvano gli alpinisti sotto le valanghe, esatto, oppure i naufraghi. Il vecchio, un po' oleografico, San Bernardo, per esempio, con la fiaschetta di liquore, certo, no? Del Mistral, mi pare fosse una cosa del genere. Ma insomma, in generale è questo. Magari non tutte queste storie saranno vere, ma sono tutte verosimili, perché il cane è un animale, diciamo, proprio in quanto animale molto sociale, ha scritto dentro nei suoi geni l'altruismo e la collaborazione. E quindi questa capacità di collaborare con l'uomo. Bene, noi ringraziamo Mainardi, buona giornata, buona domenica e a presto. Grazie. E adesso ci spostiamo in Giappone, dove si combatte un'altra guerra, una guerra per la sopravvivenza della radio, che un tempo era un medium molto, molto ascoltato e molto seguito, soprattutto tra i giovani giapponesi, e che adesso è entrato in crisi, soprattutto perché in città come Tokyo l'altezza dei grattacieli ostacola la trasmissione delle onde radio, tant'è vero che la vendita di apparecchi radio è crollata da 2, quasi 3 milioni di unità nel 98 a circa 1,9 milioni nel 2008, e per salvare la radio dall'estinzione 13 stazioni radio private di Tokyo e dintorni si sono messe assieme e hanno creato un sito internet. Quindi internet diventa una specie di scialuppa di salvataggio per la radio. Pare che questo sito, che si chiama radico.jp, Giappone, abbia avuto ben 1 milione di ascolti soltanto nel primo giorno di lancio. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Parigi, dove il nostro fotografo Mimmo Iodice espone 150 delle sue opere alla Maison Européenne de la Photographie, e poi in seguito la mostra si trasferirà all'Istituto Italiano di Cultura. 76 anni, napoletano, viene descritto sul Figaro Mimmo Iodice con l'occhio azzurro e la barba bianca come una statua di un senatore in toga, e la voce dolce e posata, e si dice che nelle sue fotografie documenta il bello più che l'orrore, i lati più segreti e nascosti della sua Napoli. Non è un'evasione consolatoria dai mali di Gomorra, ma una diversa forma di impegno per il riscatto del nostro sud. La finestra sul cortile. Sulle note del Sirtaki ci spostiamo in Grecia, nella Grecia sofferente di questi giorni, sull'orlo della bancarotta finanziaria e della guerra civile. Eppure c'è qualcuno, qualche bello spirito, che ancora pensa di scherzarci sopra. È il caso di Adrien Goetz, il critico d'arte del giornale francese Figaro, che in un articolo appunto comparso sul Figaro lancia quella che lui stesso definisce un'idea atroce pure della Grèce, un'idea atroce per aiutare la Grecia. Di che si tratta? Dice, perché non approfittare di questa crisi finanziaria e del bisogno che ha la Grecia dell'aiuto internazionale per risolvere l'annosa questione dei marmi del Partenone, altrimenti detti marmi Elgin, dal nome dell'ambasciatore britannico a Costantinopoli che agli inizi dell'Ottocento depredò il Partenone dei fregi, delle metope, di molte sculture e le trasportò al British Museum, dove ancora si trovano. Sappiamo che da quasi due secoli è in corso una contesa interminabile tra i due governi intorno alla restituzione di queste opere, di questi capolavori, che secondo gli inglesi stanno meglio al British, e proprio il fatto che sono lì a disposizione non soltanto del pubblico ma degli studiosi ha permesso senso di conservare la memoria e la bellezza di questa civiltà della Grecia antica, mentre invece secondo i greci apparterrebbero al paese, quindi dovrebbero ritornare lì. Ora, proprio l'anno scorso i greci hanno inaugurato il nuovo museo dell'Acropoli, un museo molto bello ma anche molto costoso, e in cui alcune delle opere che sono state portate a Londra sono rimpiazzate da dei calchi, e questo Adrian Goetz lancia questa idea un po' paradossale di dire: vabbè, perché gli inglesi, invece di restituirgli le opere, non gli pagano una grossa cifra, un bel pacco di sterline, a titolo di risarcimento? Sarebbe un modo per risolvere in parte la crisi finanziaria del paese, e nello stesso tempo sarebbe un grosso schiaffo all'orgoglio nazionale. Sarebbe come vendere il Pireo ai cinesi o Patrasso al Qatar. E dice: sarebbe un bel gesto, grande, nobile, ma sottilmente perverso. Sarebbe come ritornare a quella immagine della Grecia moribonda, come la dipinse Delacroix nel celebre quadro allegorico del Museo di Bordeaux. Ecco, ma a proposito di questa boutade, ecco, la dobbiamo considerare soltanto una boutade? Lo chiediamo a Salvatore Settis, che abbiamo al telefono da Pisa, e salutiamo. Buona domenica. Buongiorno. Salvatore Settis, archeologo, direttore della Normale di Pisa. Tra l'altro, lei l'anno scorso è andato a vedere proprio in anteprima questo museo dell'Acropoli e scrisse, ricordo, un bellissimo articolo sul domenicale del Sole 24 Ore. Ecco, ma questa proposta di Goetz è soltanto una boutade oppure qualcosa di più serio? Ma secondo me questa proposta come boutade va benissimo, è veramente, lo ha capito lui stesso, un'idea atroce. Per prendere sul serio non credo sia proprio il caso. Anche un po' sadica, diciamo, ecco. È un po' sadica, non credo che non ci sarebbero, tanto per cominciare, non ci sarebbero, per ragioni opposte, né i britannici né i greci. Per i greci sarebbe uno schiaffo micidiale all'onore nazionale, perché vorrebbe dire che dopo aver accusato per generazioni i britannici, in particolare l'antico ambasciatore presso il di Costantinopoli, di avere depredato o di avere comprato con delle mance a basso prezzo i marmi del Partenone, a questo punto loro stessi se li venderebbero. È chiaro che è una cosa che per un greco non ha prezzo. D'altra parte, per i britannici fare una proposta del genere sul serio vorrebbe dire ammettere che li hanno illegalmente, mentre loro sempre rivendicano, fino anche a pochi giorni fa, c'è stato un ultimo articolo che ho visto, credo una settimana o due fa, da parte britannica si rivendica la legittimità dell'acquisto, perché bisogna ricordarsi poi che il British Museum acquistò queste cose da Lord Elgin. Semmai la cosa che è assolutamente legale, fu fatto con un bill del Parlamento, e su questo nessuno dubita, neanche i greci. La cosa su cui è aperta la controversia è se Lord Elgin avesse effettivamente l'autorizzazione di prendere questi marmi o no, dal governo ottomano, dal sultano. Ecco, il rischio tra l'altro, e se vogliamo continuare in questo paradosso, è che chiedano un contributo anche all'Italia, perché c'era di mezzo un architetto italiano, tale Giovan Battista Lusieri, che collaborò allo smantellamento, no? Allo smontaggio. Quindi forse gli architetti italiani sono un po' specialisti in illegalità qualche volta. Lusieri era a seguito dell'ambasciatore britannico aveva delle esperienze di tipo artistico. Lui ha fatto anche dei bellissimi acquerelli della Grecia, aveva delle conoscenze tecniche che Lord Elgin non aveva. Tra l'altro lì la presenza italiana è ancora più divertente da raccontare, particolare, perché il famoso firmano del sultano di Costantinopoli, con cui dava la possibilità, dava l'autorizzazione all'Ordergin di prelevare questi marmi, e nell'originale turco è perduto ed è conservato soltanto in una traduzione italiana, perché l'italiano era l'unica lingua che avessero in comune questo ambasciatore britannico e i turchi. Quindi è stato tradotto, curioso, da un turcomanno, e questo è conservata la traduzione italiana, in cui letteralmente si dice, si autorizza Lord Elgin a prendere dall'Acropoli qualche pezzi di pietre. Dice proprio queste precise cose. Quindi è chiaro che cioè, anche l'italiano che ha fatto la traduzione potrebbe essere al limite responsabile. Bene, ecco, quindi insomma cerchiamo di prendere questa boutade per quello che è, insomma, e non prendiamola troppo sul serio, perché potremmo comunque ricordare le parole di Byron, del poeta inglese, che definì predone Lord Elgin e disse che aveva infierito e saccheggiato le misere reliquie di una terra sanguinante. Purtroppo è sanguinante anche oggi. Noi ringraziamo Salvatore Settis, buona domenica e a presto. Bene, a presto. Dai disastri finanziari della Grecia ai disastri ecologici della Florida, dove, leggiamo sul New York Times, in un articolo di Damien Cave, ci sono migliaia di pitoni di razza birmana, enormi serpenti che hanno invaso il parco nazionale di Everglades, e non soltanto divorano uccellini e conigli, ma se la prendono anche con gli alligatori, che sono una delle principali attrazioni turistiche della zona. Quindi nel sud degli Stati Uniti non c'è solo la marea nera, ma anche l'invasione dei rettili. Potremmo dire davvero che in America serpeggia la paura. E ci spostiamo in Argentina, sulle pagine della Nación. Leonardo Tarifegno parla di Diego El Sigala, un maestro, un musicista argentino che, con un complesso musicale composto in parte di spagnoli e in parte di argentini, ha realizzato una curiosa e discussa fusione tra il flamenco e il tango. E tra l'altro, in questa intervista il musicista dice: ma non capisco perché si debbano indignare o scandalizzare i puristi del tango, perché dopo tutto anche Frank Sinatra con Tom Jobim fece la bossa nova, e questo non fu una tragedia culturale per il Brasile. Insomma, in Italia si divide tutto, si esaltano le microculture e i dialetti, in Argentina invece si fondono le tradizioni. È nato il flamango. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it. Buona domenica e buona settimana a tutti.